9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, allora oggi ci dedichiamo al settore delle imprese della costruzione e a quello che avviene in questo fondamentale comparto che tradizionalmente nei paesi quando c'è un basso momento del ciclo economico è uno dei settori che si tenta di mettere in moto immediatamente perché è quello che ha una maggiore elasticità temporale all'offerta di manodopera aggiuntiva per tentare di tamponare quindi gli effetti della maggior disoccupazione quando è basso il ciclo economico e invece ed è naturalmente un segmento che è importante nella tipologia economica del nostro paese per numero di imprese che investe, per numero di occupati, insomma è una leva che vale più del 10% del nostro PIL, eppure da anni, dopo questi terribili 22 mesi di crisi che abbiamo alle spalle dopo Lehman Brothers, è un settore che continua a essere in una crisi profonda. Prima di arrivare a fare il punto con il presidente dell'ANCE che ieri ha tenuto la sua assemblea nazionale, devo fare una precisazione per la puntata in cui pochi giorni fa ci siamo occupati, ricordate, con Oliviero Toscani di questa campagna che ha lanciato Oliviero Toscani, in cui ci ha invitato tutti a farci delatori del brutto e a mandare fotografie al sito della sua associazione per documentare insomma le brutture che bisogna sostituire, che bisogna abbattere e ricostruire per qualificare la tutela del patrimonio urbano, architettonico, ambientale del nostro paese. Perché in quella puntata c'era il vicepresidente del FAI Magnifico, lo ricordate, che ha fatto riferimenti molto polemici a un progetto, quello di Mediapolis a Ivrea, e ci ha scritto l'amministratore delegato Sergio Porcellini lamentando naturalmente di non solo di non essere presente, perché questo non si può mai, per radio non si può garantire la presenza a tutti coloro di cui si citano interessi legittimi o comunque vicende che li riguardano, ma il problema è che proprio nel merito che Porcellini dice, lamenta che il FAI, il Magnifico in particolare, che è intervenuto il vicepresidente del FAI, dice, più volte interviene senza sapere nulla, perché ci scrive Porcellini il nostro grande dispiacere che il progetto Mediapolis nasce nel canale da un'idea che vuole opporsi all'ineluttabilità dell'abbandono e della disoccupazione, nasce da un grande amore per una terra dove chi ha lavorato a Mediapolis abita e abiterà, dandone conto alla gente. E allora bisogna evitare, ci scrive, che Radio 24 offra voce a una spettacolare diffamazione ai nostri danni, perché al contrario è incentrata su un'idea di rilancio del Canavese e del Castello di Masino che è l'esatto opposto di quello che noi diciamo, cioè bruttare il territorio. Abbiamo fatto e rifatto, continua a scriverci Porcellini, un progetto eccezionale che ha solo ricevuto riconoscimento internazionale e a Shanghai nell'Italia degli innovatori. Abbiamo fatto una valutazione di impatto ambientale durata ben 3 anni, eppure secondo Magnifico il FAI siamo tutti stupidi, provincia, regione, comuni, tre diverse amministrazioni regionali, autorità di bacino, tribunali, non mi dilungo in polemico, dico solo state attenti perché altrimenti vi fate propalatori esattamente di quella cultura del veto e del non fare che spesso Giannino critica. È vero che io la critico e quindi io faccio ammenda, ho dato pubblica lettura di questa lettera di Sergio Porcellini, l'amministratore delegato di Mediapolis, e l'ho voluto fare in questa trasmissione perché scientemente è il presidente Buzzetti, Paolo Buzzetti, che intanto è con noi e lo saluto, buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sa benissimo che a molti ascoltatori, a molti italiani, quando si parla delle costruzioni viene in mente le colate di cemento, gli interessi impropri sulle città, chi vuole cambiare i vincoli e le volumetrie, e io devo dare atto al presidente Buzzetti, conoscendolo bene, quindi dichiaro il mio conflitto di interesse immediato, che il presidente Buzzetti in questi anni, innanzitutto, lo dico per voi che siete in ascolto, perché poi vi chiederò naturalmente di intervenire al telefono al solito numero 800 24 00 24, prima che partiate in quarta, se non conoscete le sue proposte che ci ripeterà oggi, io devo dirvi che un blocco fondamentale delle proposte del presidente Buzzetti in questi anni difficili, anni di indagini che hanno fatto emergere nelle aree del terremoto dell'Abruzzo le responsabilità, perché magari c'era chi aveva costruito risparmiando sui materiali che aveva impiegato, e questo naturalmente non porta che a minore indice di tollerabilità del sisma da parte di edifici, eccetera eccetera. Anni di inchieste che testimoniano ulteriormente, ancora pochi giorni fa, gli artigli adunchi dell'Andrangheta in Lombardia e anche nell'immobiliare. Eppure proprio in questi anni, proprio a fronte della vostra sensibilità, il presidente Buzzetti c'ha un pacchetto di proposte durissime che testimoniano per gli iscritti del settore la loro volontà di adeguarsi a un criterio di trasparenza assoluta, e anche ieri ha detto chi non si adegua al codice di trasparenza assoluta va fuori. Quindi stiamo attenti a pensare che è un settore che rappresenta interessi impropri e le colate di cemento, perché qui il problema è che chi fa quello lo fa perché molto spesso sono le regole degli appalti, le eccezioni alla trasparenza con cui funziona troppe volte l'amministrazione pubblica consentirlo, e non sono affatto le imprese in regola del settore a volerlo, perché sono tagliate fuori da questo. Il problema è che noi ci stiamo giocando però tutto il settore, perché vi ripeto le due cifre che vi ho fatto all'inizio. Noi continuiamo a essere con un settore che è tornato indietro di 15 anni fa, questa è la denuncia da cui partire, perché alla fine del 2009 eravamo col 17% in meno di investimenti nel settore delle costruzioni rispetto al 2008, sulle nuove abitazioni la crisi continua ad avere un segno meno 30% nel nostro paese, e quindi ci sono 200.000 lavoratori in meno e tantissime imprese che hanno chiuso. Allora, questa è la fotografia da cui partire per Buzzetti. Mi scusi presidente se ho richiamato intanto la parte, diciamo così, della legalità come qualificante del suo pacchetto, ma è una questione di fondo, perché vedrà che gli ascoltatori con i messaggi che ci hanno mandato immediatamente si allertano per questo, ed è giusto quindi che io informi che questo è uno dei punti qualificanti della sua presidenza. Però adesso andiamo alle proposte che ha fatto ieri. Partiamo dalle tante delusioni, ovviamente, dei tanti progetti che non hanno funzionato, né sulle grandi infrastrutture né sul piano casa che si è infranto sulle regioni. Le proposte però da cui partire per tentare di affrontare queste cifre di segno così negativo, presidente, che ha illustrato ieri, quali sono? Bene, buongiorno, grazie. Ho fatto benissimo a spiegare bene la situazione. Innanzitutto il quadro è difficilissimo. Nello stesso tempo rimaniamo convinti, come diceva lei, del contributo che l'edilizia può dare all'economia, naturalmente nella legalità, cosa su cui torneremo dopo. Innanzitutto le risorse per le infrastrutture, cioè da notare che in tutti i paesi europei avanzati, anche negli Stati Uniti, in questi anni sono stati fatti investimenti prodigiosi proprio sull'edilizia, proprio sulle infrastrutture, perché come diceva lei creano, e come sappiamo da sempre, un immediato volano occupazionale facendo cose utili. Noi purtroppo sappiamo che abbiamo un deficit di bilancio pubblico che ci impedisce di dare iniezioni di risorse con decisione, però la prima nostra osservazione è questa. Diciamo che le risorse devono perlomeno essere individuate e date con regolarità, cosa che da noi invece c'è un'altalena di risorse a disposizione, e il segno è sempre più verso il meno. Perdiamo percentuali in questo momento del 10% all'anno, del 24% in tre anni di impegni. Diciamo, se posso fare un'osservazione sintetica, bisogna avere delle priorità. Noi bisogna decidere cosa fare per primo. Se le infrastrutture costituiscono o no una priorità per la qualità della vita, per il paese, per il turismo stesso. Non parlo solo di grandi infrastrutture. Noi abbiamo proposto con decisione un programma di piccole opere. Abbiamo, per dare un esempio a tutti, dato la nostra associazione ramificata in tutto il territorio, in ogni capoluogo di provincia, a regioni e comuni abbiamo chiesto, abbiamo messo insieme, per dare un'idea, 1200 progetti pronti di piccola entità per un valore di 6 miliardi di euro, che riguardano manutenzioni di vario genere, di cui il paese, come dirò fra un attimo, ha grandissimo bisogno, che però non hanno denari, sarebbero pronti a partire ma appunto sono privi di denari. Un grande progetto di piccole opere, come sono state fatte in Spagna con 8 miliardi nel 2009 spesi dal gennaio alla fine dell'anno, e che riguardavano piccole opere tutte quante comunque al di sotto dei 5 milioni di euro. Lo stesso ha fatto la Francia, l'identica cosa. Gli Stati Uniti sono passati da meno 14% di investimenti di due anni fa, con la terribile crisi 2008-2009, Quest'anno ritorneranno al segno del più 3,7% di investimenti sempre in infrastrutture. Questa dimostrazione di quanto ci si crede, naturalmente avendo i soldi a disposizione. Allora, le piccole opere, tra l'altro, sono indispensabili, lo dico con brevità, ma il nostro è anche oltre alle grandi opere, anche le piccole, perché il nostro è un paese purtroppo che frana, che ha il 70% di dissesti idrogeologici, dove purtroppo ci sono anche delle vittime costantemente, senza alcuna retorica, ma è la verità, dove la manutenzione degli edifici, lei citava giustamente il terremoto, l'edificio della prefettura in Abruzzo che è crollato e che non doveva crollare, che è un edificio pubblico, dimostra come effettivamente abbiamo edifici pubblici la cui manutenzione è urgentissima, si è invecchiato il nostro patrimonio edilizio. Bene. Allora, la necessità sarebbe indispensabile, le risorse poche, innanzitutto la seconda grande cosa che diciamo, vanno spese tutte quelle che si hanno e noi abbiamo rilevato, ma non per dire che l'abbiamo rilevato noi, è ormai il patrimonio di tutti, che ci sono tantissimi miliardi di euro non spesi, per esempio sono su 35,6 miliardi destinati a infrastrutture e costruzione nel mezzogiorno, diciamo che vengono anche da fondi europei o dai fondi, famosi fondi FAS per l'infrastrutturazione, addirittura nel programma 2007-2013 solo l'8% risulta impegnato. Anche le delibere CIPE prese, quindi la volontà politica c'è, perché il CIPE è l'organismo interministeriale che decide le somme da investire nell'anno e negli anni successivi in campo infrastrutturale. Bene, che cosa è successo? Che solo il 2,7% di quanto si è deciso l'anno scorso, di 11,3 miliardi, è stato finora impegnato, cioè abbiamo una grandissima difficoltà a spendere. Solo un inciso, Presidente, per ricordare che in questo ritardo, per esempio, dei CIPE, che poi magari chi tecnicamente ci ascolta non capisce perché non è molto. Certo. Il problema è che a oggi siamo che al Ministero dell'Economia può passare un anno per i soli decreti di registrazione delle decisioni dell'IPE, solo per la fase della registrazione al Ministero dell'Economia, poi tutto il resto lascio intendere a chi è a casa. Però attenzione, perché da parte dell'Economia naturalmente ritardare il decreto di registrazione significa poi ottenere l'effetto di cassa, che le risorse non escono davvero, è anche così che si contiene il deficit. Però allora a quel punto forse non bisognerebbe dare l'effetto illusione dei mega programmi approvati dal CIPE. Mi scusi se l'ho interrotta, ma è per capire, perché altrimenti poi la gente dice sì, ma perché se il CIPE approva passano anni e anni? Intanto si aspetta un anno per il decreto di registrazione, poi prima di arrivare all'apertura dei cantieri eccetera, altri anni per ogni fase, però intanto così si disciplina l'evitare che decisioni di competenza diventino davvero cassa. Prego, Presidente. Benissimo, lei è stato chiarissimo e quindi le risorse sono poche, questo non c'è dubbio, bisognerebbe creare condizioni che però richiederebbero regole e garanzie anche per capitali privati nel campo delle stesse infrastrutture, il famoso project financing. Le risorse sono troppo poche, ma anche quelle che abbiamo non riusciamo a spenderle in tempi rapidi. Non è per dare colpa a qualcuno, bisogna capire come paese, in che momento, in che difficoltà siamo. Questo difficoltà quindi anche di spendere le risorse che abbiamo. E ancora, il problema è che la crisi ha messo con evidenza a nudo il fatto che siamo immobili, cioè che abbiamo un sistema di meccanismi amministrativi, di acquisizione dei permessi, di procedure amministrative, che è lentissimo, è borbonico, è fuori dal mondo, perché un paese moderno deve reagire in tempi moderni. Quando dico che in Spagna, in Francia, senza fare l'esterofilo, negli Stati Uniti hanno speso subito risorse, perché le riescono anche a spendere subito, noi non ci riusciamo, non è la colpa del singolo, anche quando c'è la decisione politica, noi un'attenzione sull'edilizia però la vogliamo in questo momento vedere maggiore, però anche quando c'è la decisione politica, in alcuni casi c'è stata, non si procede. E questo del groviglio di norme, di stratificazioni di norme su norme negli anni, che impediscono diciamo sia l'attività pubblica che l'attività privata, pensiamo del piano casa, che onestamente bisogna dire che è stata una ottima idea della Presidenza del Consiglio, però non ha funzionato per niente. Se lei chiede a un cittadino, chiede a un imprenditore in tutta Italia come si fa a accedere al piano casa, io sono sicuro che non glielo sanno dire. Esatto. È partita un'idea giusta, che tra l'altro si è arricchita della possibilità. Lei diceva giustamente, abbiamo molti edifici, come accade in tutte le città del mondo, rispettando tutte le regole naturalmente delle bellezze che abbiamo, ci mancherebbe, ma io dico brutti edifici ce ne sono tanti e spero che la campagna di Toscana andrà benissimo, a livello toscano andrà benissimo e che porterà con evidenza quanti potrebbero essere abbattuti e ricostruiti, a cominciare da quegli edifici pubblici che ne hanno bisogno. Allora, noi eravamo ancora alle norme degli anni 40, questo provvedimento del piano casa potrebbe portare in nuce alcune norme per abbattere e ricostruire. Ma che cosa è successo? Conflitto Stato-Regioni, ci abbiamo perso un anno, titolo quinto della Costituzione. Poi ogni regione, per carità, ha prodotto la sua norma, differente ognuna dall'altra, ma in un groviglio, diciamo, normativo, e non andando a cogliere, praticamente si è spersonalizzata quell'idea iniziale che era di una grandissima semplicità e che aveva bisogno di un pacchetto di norme, che se poi vuole le ripercorriamo, e che comunque esistono, ci sono, ma non sono state poi applicate, alle quali bisogna assolutamente tornare per farlo funzionare, non è che ci dobbiamo arrendere, ma per dire che il passaggio normativo è quello che crea i problemi. In questo l'impresa di costruzioni si trova a fare una serie di mestieri impropri. La rivoluzione che ci vorrebbe nel nostro paese di modernizzazione in senso liberale è quella di semplificare e controllare. Questo è quello che avviene in tutti i paesi del mondo. Noi invece abbiamo 2500 controlli su ogni passaggio e non controlla più niente nessuno. Allora, perché, Presidente, la interrompo un secondo per ricordare a chi è a casa. Ieri questa assemblea ha proposto, oltre di tornare, come ha detto, con queste semplificazioni sulle competenze normative sul piano casa 2, ha lanciato un progetto per la sostituzione del patrimonio immobiliare rivolto a fini scolastici nel nostro paese. Anche lì c'è un grande problema evidente di qualificazione, di anzianità e di scarse caratteristiche tecniche, di compatibilità ai fini formativi, nonché di efficienza energetica di quel patrimonio immobiliare, che si può fare, lei ha indicato, anche col vasto concorso di finanza e di patrimonio di privati. Poi ci sono tutta una serie di altre proposte che le chiedo di illustrarci subito, che riguardano proprio le white list, che forse chi a casa non sa chi siano, quindi entriamo proprio nell'argomento delicato toccato dalle molte inchieste, nelle richieste di escludere in un'ottica di trasparenza le imprese dalle offerte anomale nelle aste, nelle procedure di nel dare più importanza al progetto e anche con questo poi quindi perdere meno tempo. Ci spiega un secondo qual è questo blocco di idee che avete elaborato in questi anni per fare capire che le imprese di costruzione italiana del Lance non hanno a che vedere con le cricche? Certo, quello delle scuole, voglio solo dire, è un programma che abbiamo voluto prendere esemplificativo degli interventi, anche di piccole opere importantissime, perché ne va della sicurezza dei nostri figli nelle scuole. C'è stato stanziato dal governo denari importanti, 1 miliardo a seguito di questa campagna sul programma delle piccole opere, solo per le scuole. Naturalmente non è stato ancora impegnato per le ragioni che dicevo prima, ormai la decisione è stata presa da tempo. Noi abbiamo messo un osservatorio con l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, per monitorare insieme la spesa di questi denari pubblici, ai quali vogliamo aggiungere in project finance e denari privati, proponendo meccanismi di sostituzione degli edifici vecchi scolastici e costruendone di nuovi, e vogliamo che questo programma sia un programma, diciamo, emblema, perché se siamo un paese civile che è in grado di reagire e dimostrare con la crisi di uscirne meglio e di modernizzarsi, dobbiamo riuscire a mettere a posto le scuole italiane in un tempo ragionevole. Io questo dico che è un obiettivo che come paese ci dobbiamo dare. Detto ciò, abbiamo quindi sulle semplificazioni, come le dicevo, e sulle risorse, come le dicevo, bisogna prendere delle decisioni finali e metterci tutto l'impegno del paese per riuscire a dare una svolta e liberare le energie che l'edilizia può. Naturalmente tutto questo si richiede, c'è un problema, giustamente lei mi dice, di natura etica in generale. Ecco, devo dire che tra l'altro abbiamo cominciato a lavorare moltissimo su una serie anche qui di passaggi normativi. che effettivamente possono aiutare in questo senso in maniera decisiva. In questo devo dire che c'è un lavoro che abbiamo fatto anche con tutte le principali stazioni appaltanti del paese, con tutte, abbiamo messo insieme varie associazioni di categoria, ci sono parlamentari che sono competenti sulla materia, che stanno lavorando con grande per trovare quelli che sono gli elementi giusti da mettere, e che io provo a elencarle rapidamente. Innanzitutto sulla malavita organizzata siamo contentissimi che il ministro Maroni è piaciuta la cosa, l'ha elaborata e la sta cominciando a portare avanti, lo ha dichiarato anche in televisione e in varie interviste in questi giorni. Sono le cosiddette whitelist, cioè di andare a fare con le prefetture delle liste delle imprese, diciamo delle forniture soprattutto di materiali, pensiamo alle cave, pensiamo alla fornitura di determinati materiali, in modo che l'impresa nel momento in cui si realizza, deve fare un lavoro, ci sia da parte, diciamo, dello Stato un'indicazione di liste di dove ci sono sicuramente delle condizioni di trasparenza e di estraneità alla criminalità organizzata, e che vengono poi però perseguite rispetto all'impresa stessa, rispetto a questi fornitori diciamo di materiali e produzioni varie nella zona dove si realizza il cantiere, ci sia poi un controllo minuzioso. Adesso vi dico solo degli esempi: degli automezzi, degli operai con il cartellino che lavorano, del movimento che avviene intorno al cantiere. Questo, secondo noi, per la nostra esperienza, è un grande elemento. Questa è una cosa che può fare naturalmente solo lo Stato, di predisporre una lista e di dare un'indicazione, diciamo, in questo senso, e questo sicuramente produrrà un vantaggio molto importante ed è stato assolutamente ben accolto. Poi ci siamo orientati una serie di modificazioni che devono andare anche diciamo ad aiutare nel campo degli appalti a migliorare complessivamente una normativa che ancora una volta negli anni si è stratificata e che spesso non riesce a essere efficace. In questo senso abbiamo predisposto, e c'è largo consenso per attuare queste modifiche, dei meccanismi che vanno verso, lei diceva giustamente, il progetto è andato al punto, a un punto essenziale, innanzitutto che i progetti siano fatti naturalmente bene, cosa che per una serie di ragioni, anche non cattive intenzioni, tempi lunghi della progettazione di un'opera, tanti fatti, alle volte, molto spesso, troppo spesso non lo sono, quindi una responsabilizzazione in positivo naturalmente però dei progettisti rispetto al progetto stesso, una individuazione delle imprese che tenga conto delle caratteristiche dell'impresa, sa che oggi le imprese si battono soprattutto su questa questione del fatturato. Senza fare discorsi troppo complicati, vuol dire che io ho la patente di costruttore nei lavori pubblici solo se dimostro di aver fatto un certo quantitativo di lavori, è come se un giornalista potesse fare il giornalista perché ha fatto un minimo di 100 articoli all'anno. Se non ce l'ho, ti ritiro la patente di costruttore. Allora questo scatena la necessità anche delle imprese di mantenere questo punteggio facendo lavori, anche in condizioni di crisi, col famoso massimo ribasso. Si arriva al 60% dei ribassi su un lavoro che si capisce bene che nella maggior parte dei casi non è possibile. Io lo dico chiaramente, sono rischi di riciclaggio di denari. Evidente, certo. Allora, quindi è evidente che bisogna, c'è un meccanismo adesso nel quale non mi dilungo, però in cui le amministrazioni devono tornare a quello che un tempo c'era, la capacità di poter scegliere l'impresa in base a caratteristiche oggettive di capacità strutturali, finanziarie. Bene. Adesso diciamo la parte di illustrazione che con i tempi della radio lo potevamo dare, eccola qua, e adesso noi dobbiamo andare in pubblicità. Io ricordo che c'è anche un'altra, tra le tante questioni ce n'è una che levo l'incombenza al Presidente di dire, perché questa fa parte dei miei cavalli di battaglia, c'è anche il fisco, perché ricordate come sempre in ascolto che lo Stato è vorace, lo Stato è rapinatore, lo uso io questo aggettivo perché io penso che uno Stato che non non paga i suoi fornitori e si piglia in anticipo tutte le tasse in anticipo, perché quando voi realizzate una cosa e non l'avete venduta, intanto ci pagate la tassa sopra. E giustamente su questo punto, sulle tasse nella fase di produzione e sul mancato realizzo della produzione, c'è un passaggio che a me sembra molto importante nella relazione di ieri, perché è l'ennesima prova di come lo Stato ci chiede rispetto della legge che lui non rispetta nei nostri confronti, che lui viola nei nostri confronti, che lui si mette sotto i piedi. E la mia modesta opinione di liberale è che a questo punto è uno Stato corruttore, perché uno Stato che non rispetta il patto fiscale e che si mette sotto i piedi lo statuto dei contribuenti, mai legge fu più violata, è uno Stato che perde il diritto poi a dirci che noi dobbiamo per forza invece rispettare unilateralmente però il contratto fiscale nei suoi confronti, che lui non rispetta nei nostri, che lui non rispetta nei confronti delle imprese, producendo così disoccupazione, chiusure e soprattutto illegalità. Questo Stato è, dal punto di vista fiscale, mi dispiace per Tremonti, la sincera dedizione dei finanzieri che ci ascoltano, illegale e corruttore. Eccoci tornati in studio, stiamo facendo il punto su, ahimè, dolente punto sulla situazione del prezzo di costruzione nel nostro paese, con il presidente Paolo Buzzetti dell'ANCE, che era tenuto l'assemblea. Ci ha illustrato sinteticamente, ma insomma per un quarto d'ora, quindi un tempo radiofonicamente lungo, il punto della situazione, le proposte, almeno alcune delle più rilevanti avanzate da imprese di costruzione, per tentare di dare uno stop a questo ritorno indietro a doppia cifra di un settore che invece potrebbe e dovrebbe negli altri paesi lo fa dare molto per contrastare gli effetti del ciclo economico negativo. Sentiamo adesso intanto la politica e un esperto, uno dei più affidabili secondo me esperti del settore del mattone nel nostro paese, intanto i politici, per chiedere loro cosa pensano, come rispondono alle proposte, alle analisi, alle critiche del presidente Buzzetti. Abbiamo con noi Raffaella Mariani, che è del PD, è membro della commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera dei Deputati. Buongiorno e grazie onorevole Mariani. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E poi abbiamo Franco Stradella, che è membro anche lui della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera per il PDL. Buongiorno onorevole Stradella. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi abbiamo Lorenzo Bellicini, che è direttore del CRESM, ve lo dicevo, Centro Ricerche Economiche e Sociologiche di Mercato per l'Edilizia e il Territorio. Secondo me uno davvero dei più qualificati contributori all'ampliamento dei dati, alla interpretazione dei dati di tutto il settore immobiliare delle costruzioni nel nostro paese. Buongiorno e grazie a Bellicini, perché so che le stiamo rubando tempo, si sta anche spostando. Buongiorno, grazie a voi. Allora, iniziamo con l'onorevole Mariani. Dunque, essere un parlamentare, essere dell'opposizione, occuparsi di questi problemi, perché voi siete persone che ne occupate con competenza, però di fronte a queste analisi, la risposta che verrebbe da dirle qual è? È che poi il più forse per sbloccare dalle grandi opere alle piccole opere lo può fare solo chi ha in mano la leva della pubblica amministrazione, cioè il governo, oppure in realtà il Parlamento cosa può fare rispetto a il tentativo di dare risposte immediate, cioè non si tratta solo di pensare ai progetti a lungo termine, ma di capire dove nel breve si può almeno levare qualcuno dei blocchi che ci ha illustrato Buzzetti. Ma guardi dottore, noi abbiamo mille volte chiesto di poter intervenire anche puntualmente su alcune delle norme che dal nostro punto di vista rallentano anche un processo di avvio, di nuovo avvio delle opere pubbliche. L'abbiamo fatto anche ritenendo che il Parlamento abbia il dovere, proprio perché si parla di leggi, di normativa che va a beneficio di tutti, degli imprenditori, ma comunque del sistema nazionale, abbia il dovere di fare delle proposte. E l'abbiamo fatto anche rilevando, non solo dalle parole dei principali esponenti dell'ANCE, di coloro che dal fronte dell'impresa ci fanno notare ogni giorno quelle che sono le loro difficoltà, le conosciamo molto bene, il presidente Buzzetti le ha rimesse tutte in fila, ma anche da un sentire delle pubbliche amministrazioni, anche degli amministratori locali, che vivono un disagio tremendo, intanto perché non corrispondono all'esigenza di servizi più efficienti, moderni, si parli di viabilità, si parli di scuole, si parli di infrastrutture di trasporto, si parli di acqua, si parli di infrastrutture per il sistema dei rifiuti. Le infrastrutture sono moltissime e il lavoro per il settore dell'edilizia è molto più ampio che non quello, diciamo, che verte sul mercato immobiliare. Però quello che abbiamo detto mille volte è: noi stiamo vivendo un'anomalia troppo evidente in questo paese, che non è solo collegata alle vicende della corruzione gravissime che in questi ultimi mesi stanno affiorando, ma è legata ad una diversa, come dire, impostazione, marce diverse rispetto alle quali un sistema si avvantaggia e la maggior parte invece del sistema, del comparto dell'edilizia, rimane indietro. Noi oggi viviamo nel nostro paese almeno 4 distinte procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici. Una è quella ordinaria, quella che fa riferimento al codice degli appalti, quella che il presidente Buzzetti definisce ormai troppo stratificata, ma rispetto a quella procedura, quella ordinaria, quella che dovrebbe valere per tutti i cittadini, per tutte le imprese che si occupano di appalti e servizi, vi sono poi delle procedure, diciamo, semplificate, tra virgolette, quelle che hanno permesso in questi anni, soprattutto negli ultimi, di procedere velocemente su alcune grandi opere, sulle opere che hanno attinenza con la protezione civile, con i grandi eventi, con situazioni che hanno preso la connotazione di situazioni di emergenza, anche laddove non vi erano stati calamità naturali, ma né appunto vi erano condizioni perché questo fosse. E quindi noi totalizziamo il fatto di avere regimi che, diciamo, sia quelli ordinari, quelli criticati dalle imprese perché sono più adempimento al risultato, certo, sia quelli straordinari in cui la pubblica amministrazione è contro il mercato perché finisce per essere semplicemente contro ogni trasparenza. Anticoncorrenza, quindi, diciamo, visto il suo, come dire, taglio, è proprio certo, anticoncorrenziale, perché con affidamenti diretti, senza procedure di gara e senza trasparenza, non si fa un servizio assolutamente alla totalità delle imprese, ma si favoriscono alcuni gruppi che poi, andando a vedere, potremmo anche fare dei riferimenti. Dal punto di vista dell'opposizione, poi passiamo a sentire il rappresentante della maggioranza. Alla luce di tutto quello che sta succedendo, sia dei dati economici che delle indagini, delle inchieste e di questi rilievi sulle procedure ordinarie, nonché straordinarie e in deroga, ci sarebbe la possibilità tra voi, nella commissione, tra maggioranza e opposizione, di convergere su pochi punti chiari di modifica sia di quelle ordinarie che di quelle straordinarie, oppure su questo il dissenso e lo scontro è molto forte? Mariani. Guardi, noi abbiamo già fatto alcune proposte su singoli provvedimenti che hanno riguardato, per esempio, ora la vicenda della che il ministro Maroni ha posto al Parlamento riguardo alla definizione di alcune nuove norme soltanto per gli appalti, a riferimento soltanto alle camorra, mafia, tutto il sistema, diciamo, illegale. Ma noi questa proposta vorremmo estenderla anche al sistema ordinario degli appalti. È una proposta sulla quale stiamo lavorando, confrontandoci con ANCE, ma con altri anche soggetti, anche pubblici, amministratori regionali, eccetera. E rispetto a questo noi siamo aperti a un confronto e abbiamo più volte sollecitato anche il ministro Matteoli, i membri del governo, a farsi carico di una condivisione, su questo non abbiamo assolutamente tabù, di alcune norme chiare che possono anche ridurre quella stratificazione, però consentire che vi sia una concorrenza leale e trasparente tra tutte le imprese. Grazie, onorevole Maria. Allora sentiamo con l'onorevole Stradella il punto di vista della maggioranza. Anche qui io, per rispetto di chi esercita la funzione parlamentare, io ricordo a chi è in ascolto che in Parlamento poi si può fare poco per incidere realmente sui problemi, tanto delle grandi opere infrastrutturali che delle procedure tecnico-amministrative per ciascun diverso regime ordinamentale che presiede alle gare d'appalto nel nostro paese, tanto a quelli ordinari quanto a quelli straordinari. In realtà poi è il governo che a volte pensa di poter fare molto. La legge obiettivo, anche la legge obiettivo poi ha avuto una cifra impegnata e di realizzo concreto, l'impegnata molto più basso rispetto al tante volte dichiarato, perché il meccanismo CIPE, come abbiamo visto, è molto lungo. Poi lasciamo perdere quanto poi del dichiarato CIPE si è tradotto davvero in apertura dei cantieri. Quindi lo stesso governo a volte è del tutto impotente nel nostro paese. Pur detto questo, dal punto di vista di un parlamentare che si occupa in maniera competente di questi problemi, le risposte che secondo lei la maggioranza è possibile, insieme anche all'opposizione, è in grado di dare almeno a qualcuno dei più gravi problemi sottolineati dal presidente Buzzetti, secondo lei, onorevole Stradella, che si può fare? Vede, dottor Giannino, lei ha un grande pregio, quello di saper fare delle domande, ma di altrettanto poter rispondere in modo compiuto. Cioè, lei ha fatto un'analisi e ha dato anche, secondo me, la risposta, nel senso di dire che nel nostro paese purtroppo molte volte c'è una prevalenza della burocrazia rispetto alla cosiddetta volontà politica. Io credo che quanto affermato dalla collega Mariani sulla capacità della politica di fare proposte che siano anche condivise da maggioranza ed opposizione, che mirino all'obiettivo di semplificare le procedure e di dotare il Paese di strutture che necessitano per lo sviluppo sia la verità. Purtroppo però poi noi ci troviamo a dover fare i conti con una legislazione, con una è vero che la legislazione è nelle mani della politica, potrebbe essere cambiata, ma il nostro è un'eredità che deriva da tanti anni di compromessi, da tanti anni di confronto, spesse volte inquinato dall'ideologia. Io le faccio un esempio, io sono relatore di progetti di legge parlamentare di varie origini sul governo del territorio. Il governo del territorio è una cosa che è in parte delegato alle regioni, in parte materia esclusiva delle regioni, in parte dovrebbe essere materia dello Stato. È un anno che noi abbiamo 5 proposte di legge da assemblare per fare un testo unico e per tentare di portarlo in aula, non riusciamo a mettere insieme tutti gli elementi per la semplice ragione che le decisioni a cui si faceva riferimento prima il Presidente Buzzetti sul piano casa, che modificano da regione a regione le regole e le norme, ci impediscono di fare un testo che possa avere una valenza per il territorio, per tutto il territorio nazionale. Allora, la modifica del titolo quinto della Costituzione è, a mio parere, uno degli elementi di maggiore inquinamento del decisionismo e della possibilità di fare nei confronti del Paese e dei cittadini quelle opere necessarie, quegli interventi che determinano condizioni di sviluppo diffuso. Perché questo avviene? Perché spesse volte nella decisione politica poi dalla decisione politica poi derivano tutti gli interventi degli organismi, dei cosiddetti organismi di partecipazione democratica, delle amministrazioni locali che intervengono su materie che spesse volte sono al di fuori delle loro competenze, delle loro, l'esempio della alta velocità in Val di Susa è un esempio di blocco di un'opera necessaria per lo sviluppo del Paese, effettuata da un gruppo di pressione che io non so se è ideologicizzato o se è soltanto mal informato, ma che di fatto ha bloccato un'opera importante che determinerà una variazione di progetto. Anche lì le osservazioni che faceva il Presidente Buzzetti sulla necessità che ci siano progetti esecutivi fin dall'inizio dell'idea di un'opera, per evitare che ci siano poi nel corso della discussione continue varianti e continue necessità poi di aggiornamento dei costi e così via. Tra l'altro nella manovra in approvazione in Parlamento ci sono delle norme sulla modifica della conferenza dei servizi che sono proprio ispirate a questa esigenza, cioè l'esigenza di non consentire a ciascuno, basta non sedersi a un tavolo, un soggetto della conferenza dei servizi e far diluire i tempi. Vedremo se poi naturalmente nel meccanismo di attuazione non si trovi qualcuno di quei tanti ritardi che, come vedete, a volte non è che la politica non sia consapevole di quello che viene dalle imprese. Il problema è che nell'Italia di oggi anche i consapevoli non riescono poi a trovare il modo per sbloccare la concrezione di questo stato pachidermico. Io torno su questo punto perché il troppo stato, che a molti piace, come vedete, è sempre il problema e non la soluzione. Eccoci tornati in studio all'indomani dell'assemblea dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Abbiamo fatto il punto su questo ritardo incredibile, su questa crisi a doppia cifra del settore, i tanti ritardi, le regole tra grandi opere, piccole opere che nel nostro paese non abbiamo attivato a differenza di quanto è avvenuto in Spagna o in Francia, nuove idee come il recupero e la sostituzione del patrimonio immobiliare per le scuole, per la qualificazione energetica di edifici pubblici, nuove idee per abbattere aumentando volumetria, per rendere economicamente anche redditizio l'abbattimento, perché altrimenti ha dei costi, lo ricordo a chi è a casa, non è un trucco come immaginate subito a favore di chissà chi e quale cricche, e soprattutto un pacchetto di proposte avanzate dalle stesse imprese per evitare di essere tagliate fuori da quelle che abbattono i costi perché riciclano denaro sporco nel nostro paese. Ma sono le imprese stesse che danno la politica delle liste bianche per dire questi sono in regola, verificate voi per primi che siamo in regola, e poi modifiche per le regole sugli appalti, sulle procedure ordinarie e straordinarie per l'aggiudicazione dei lavori. Domanda però a Bellicini, il direttore del CRESME. In realtà, se andiamo a vedere in termini comparati la realtà immobiliare del mattone nel nostro paese, sia per l'offerta residenziale, le famiglie, insomma, e negli altri paesi europei, che cos'è che contraddistingue il fenomeno in corso nel nostro paese? Cioè, in realtà, se uno va a vedere l'evoluzione della domanda e dell'offerta tra Italia e altri maggiori paesi, a giudizio suo, che da anni fa proprio questo e dà dei dati senza i quali noi non capiremo quasi nulla, a dire la verità, di come va il settore, che cos'è che determina andamenti così differenziati? Se dovesse dare un giudizio grossier, non per addetti ai lavori tecnici, Bellicini. Ma diciamo che noi siamo un paese occidentale industrializzato che si colloca anche rispetto alla dimensione della crisi che stiamo vivendo in mezzo, no? Da una parte abbiamo i paesi Spagna, Irlanda, dove il crollo del settore delle costruzioni è del 60-70% nelle nuove costruzioni, dall'altra abbiamo paesi come il Giappone e la Germania che hanno avuto una crisi molto molto più contenuta, anche perché non hanno avuto l'eccezionale boom del mercato delle costruzioni che hanno vissuto tutte le economie avanzate. Quindi noi stiamo un po' in mezzo. Nello stare in mezzo in questa situazione, il nostro settore delle costruzioni ha sicuramente dei vantaggi e poi dei difetti. Il disordine e sicuramente la non considerazione dei tempi, del valore del tempo, è uno dei caratteri del nostro mercato. Se noi andiamo a vedere quando i grandi investitori internazionali si rivolgono al mercato italiano, si ritrovano di fronte a un problema che è quello di decidere nel giro di pochi anni, 2-3 anni, e gli interventi da noi si fanno nelle grandi aree urbane in 10-15 anni. Allora, cioè questo è sicuramente un disordine, tanto è che se andiamo a vedere le ultime azioni di politica pubblica, sia che prendiamo in esame il piano Casa 1, sia che prendiamo in esame il piano Casa 2 degli ampliamenti, sia se andiamo a vedere l'azione della legge obiettivo che ha portato sicuramente degli investimenti in infrastrutture importanti, però la variabile tempo nel nostro paese sembra che non sia rilevante, no? E chiaramente in una situazione in cui il mercato sta cambiando in maniera così significativa, questo invece è un aspetto centrale. Devo dire che nella situazione attuale che viene messa in evidenza nel rapporto ANCE, sicuramente oggi siamo di fronte a una situazione di crisi che viene percepita poco, la crisi del settore delle costruzioni, paradossalmente. Potremmo dire che con il 2010 rallenta la caduta della domanda, ma che col 2010 e 2011 siamo proprio di fronte alla crisi dell'offerta. Nel 2010 si presentano i bilanci del 2009, nel 2011 quelli del 2010 e sicuramente saremo di fronte a una situazione di forte crisi di tenuta del sistema imprenditoriale. Perché oltretutto poi con questi bilanci sarà sempre più difficile per moltissime imprese, soprattutto quelle alla base della piramide del settore, ottenere credito rispetto alle banche, quindi questo è un problema serissimo di tenuta. Certamente, voglio dire, qui siamo passati da una fase dove avevamo crediti in eccesso ad una situazione di restrizione sorprendente, no? Allora, questo è un momento molto particolare, per cui una concretezza di azione pubblica per quanto riguarda il sostegno del settore in questo momento è centrale. Diciamo che però, data la situazione del debito, dati i problemi finanziari, è chiaro che le risposte sono deboli, sono fortemente deboli. Pensiamo che forse una delle risposte più rapide che potrebbe essere data è che le amministrazioni dovrebbero almeno pagare i debiti che hanno. Ecco, e qui torniamo al punto decisivo, perché io credo che, ohimè, ci siamo tenuti un po' lunghi, perché abbiamo fatto parlare a lungo il Presidente, poi per recuperare con i politici abbiamo dato poco spazio per i cini, e adesso non c'è più tempo per la replica dei Buzzetti. Quindi io mi permetto di dire che facciamo proprio questa conclusione finale. Qui c'è uno Stato che genera, per la complessità, la contraddittorietà, l'autoillusione delle sue norme e soprattutto il fatto che non mantiene la parola nemmeno nei pagamenti, genera il più delle questioni. Lo Stato che dovrebbe tutelare la qualità degli edifici, tanto è vero, a cominciare pubblici, no? Quelli delle scuole, come si è detto, quelli pubblici per non crollino e così via, è un cattivo garante di se stesso, un cattivo garante degli altri, è un pessimo pagatore e vuole solo una cosa. In tempo vuole solo le tasse. A me uno Stato così non piace, lo dico con grande sincerità. Do atto a Buzzetti di aver orientato in questi anni l'attività dell'ANCE a una incalzante serie di proposte alla politica, però l'avete sentito, i politici, maggioranza e opposizione, dicono ma noi che possiamo fare? In realtà il tempo che ci ha richiamato Bellicini è ciò che il nostro paese dimentica, che è la vera scala per allocare risorse nel mondo, il tempo. Noi non abbiamo tempo, eppure lo buttiamo via. L'imprenditore fa lo sconto del tempo, per questo è una figura da difendere. Invece il pubblico dissipa il tempo. Questo è il motivo per cui sono antistatalista e chiudo coerentemente anche oggi su questo tema, perché è un punto fondamentale. Grazie al presidente Buzzetti, a Raffaella Mariani e al suo collega onorevole Stradella. Grazie a Lorenzo Bollicini. Appuntamento a domani, linea al Giornale Radio.